Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 444, nella quale parleremo di animali, di mare, di vacanze e turismo, portandovi dalla Romania alla Norvegia, dal Canada all'Islanda. Speriamo di avervi incuriositi. Dedichiamo questa puntata a Chaos, un pastore belga malinois che si era distinto nel soccorso delle vittime del terremoto di Amatrice, Norcia e Campotosto. Chaos non è morto tra le macerie come tanti altri cani ai quali abbiamo affidato compiti pericolosi e che non hanno potuto scegliere. Chaos è stato ritrovato morto a Sant'Eusanio Forconese, un piccolo borgo a pochi chilometri dall'Aquila, in un terreno a tratti incolto e non recintato nel quale aveva trascorso la notte. Apparentemente sembrava morto avvelenato, ma questa ipotesi è stata messa in dubbio da accertamenti effettuati utilizzando un altro cane, Kenya, che collabora con le unità cinofile antiveleno dei carabinieri forestali di Assergi, incaricata di setacciare l'area alla ricerca di altre esche velenose. Qualche domanda viene da porsela su questa vicenda. Intanto, com'è possibile che un cane addestrato e così eroico con quello che costa e che comporta addestrare un cane per la ricerca di corpi umani in situazioni di emergenza venga lasciato fuori all'aperto, libero, in un terreno non recintato? Chaos è morto di notte da solo e viene da chiedersi perché il suo padrone, un termine che non ci piace, non lo facesse dormire in casa con sé, come si fa abitualmente con i cani di famiglia per la loro incolumità. Troviamo ironico il fatto che un cane lavoratore debba rischiare la propria vita per indagare sul motivo della morte di un altro cane lavoratore. I cani che vengono addestrati a intercettare le esche avvelenate sono sempre combattuti tra l'obbedienza al comando e la gola, la voglia di prendere in bocca il gustoso boccone e l'imposizione di non farlo. Il loro addestramento coercisce i loro istinti innati. A volte qualcuno non resiste e si avvelena. Cosa ne pensiamo dei cani lavoratori? È accettabile addestrare gli animali a risolvere i problemi della società umana e a svolgere funzioni che spetterebbero a noi? È qualcosa che può avere senso, una giustificazione morale? A chi ci ascolta, lasciamo questa domanda aperta. Delle coste del British Columbia, in Canada, una femmina di orca ha portato per giorni sul dorso la carcassa del suo piccolo morto. Era nato precoce e continuava ad andare a fondo, così la madre cercava di tenerlo in superficie. L'orca è un esemplare di 20 anni, nota con la sigla J35. Aveva partorito il suo primo cucciolo nel 2015 e la sua processione funebre, con il piccolo morto sul dorso, è durata 3 giorni, lungo un percorso di 200 chilometri. La più ampia questione ambientale riflessa nella storia di J35 è che sia gli Stati Uniti che il Canada devono raddoppiare gli sforzi per riportare alla normalità la popolazione di salmone Chinook in tutto lo stato di Washington e nella Columbia Britannica per garantire l'alimentazione delle orche. Questa popolazione in via di estinzione dipende dal salmone Chinook come primaria fonte di cibo. Sfortunatamente anche il salmone Chinook è in pericolo. È da tempo dimostrato che questi cetacei diventano sempre più magri e che il tasso di mortalità è in aumento. Negli ultimi 3 anni nessun'altra gravidanza è andata in porto e non c'è tempo da perdere. Ci sono solo ancora 5 anni di vita riproduttiva in questa popolazione. Inoltre c'è un accordo per estendere il Trans Mountain Pipeline che trasporta il petrolio dall'Alberta alla British Columbia. Gli effetti di questa grande opera saranno devastanti per le orche. Si moltiplicherà il traffico di petroliere, saranno più esposte a rumori e a potenziali sversamenti. La costruzione di questo gasdotto dovrebbe iniziare tra pochi giorni, in agosto. Anche per le orche e per i loro piccoli dovremo impegnarci a sviluppare fonti di energia rinnovabile alternative al petrolio. Ancora animali acquatici, ancora emisfero nord, stavolta parliamo di balene e andiamo in Islanda. La controversia sulla caccia alle balene minche in Islanda si chiude non per la vittoria degli animalisti, ma per il drastico calo dei profitti che ha colpito l'industria locale. Lo ha detto il Fondo Internazionale per il Benessere degli Animali. Solo 6 balene minche sono state catturate a giugno e nessuna a luglio, rispetto a una quota assegnata di 262. Si tratta del numero più basso da quando l'Islanda ha ripreso la caccia alle balene nel 2003, con 17 animali catturati la scorsa estate e 46 nel 2016. Il capo della compagnia marittima di navi baleniere, Gunnar Johnson, ha confermato che la caccia è cessata. «Abbiamo bisogno di andare molto più lontano dalla costa rispetto a prima, quindi abbiamo bisogno di più personale, il che aumenta i costi», ha detto al quotidiano Morgunblaðið. L'Islanda, insieme alla Norvegia, sfida apertamente il divieto della caccia alle balene delle autorità internazionali. La pratica ha attirato l'attenzione di Unione Europea e Stati Uniti che nel 2014 hanno minacciato l'Islanda di sanzioni economiche. La compagnia islandese di caccia alle balene Valur ha attirato le ire degli ambientalisti all'inizio di luglio, quando è stata accusata di avere ucciso una rara balena blu. In realtà l'esemplare si è rivelato essere un ibrido tra una balenottera azzurra e una balenottera comune, un esemplare forse ancora più raro della balena blu, che però non ha leggi di protezione che impediscano espressamente la sua caccia. Fires in the fold, like you, the flames could end it all. Fires in the fall, like you, the flames could end it all. Non solo la pesca e le infrastrutture petrolifere mettono a repentaglio gli animali marini del nord del mondo, anche il turismo ha un impatto distruttivo, anche se preferiamo non pensarci troppo sopra. A ricordarcelo è il servizio curato dal nostro Lorenzo Guadagnucci. La fotografia è di quelle che non si dimenticano. L'orso polare è riverso sulla riva del mare, sul fianco destro, una zampa piegata in modo innaturale, il corpo enorme adagiato vicino a tronchi e pezzi di legno portati a terra dalle onde. Non sta dormendo. Poco lontano tre persone sul bagnasciuga guardano verso l'acqua, indifferenti. L'orso bianco, dicono le cronache, è stato ucciso a fucilate dalla scorta armata che accompagna i turisti in visita alle isole Svalbard, a nord della Norvegia, verso il Polo Nord. È stato ucciso a scopo difensivo, dicono gli dispacci di agenzia, perché si era avvicinato alla nave di turisti e aveva ferito uno degli addetti alla sicurezza. L'altro avrebbe a quel punto sparato, uccidendo l'animale. Dunque tutto regolare. Il servizio di sicurezza armato è obbligatorio per chi visiti le Svalbard, proprio a causa degli orsi, che spesso si avvicinano ai turisti in cerca di cibo. Le Svalbard sono un gruppo di isole nel circolo polare artico, la terraferma abitata, poco abitata, più vicina al Polo Nord. Sono isole famose per i ghiacci, per la banca dei semi che conserva a bassissima temperatura la biodiversità vegetale del pianeta e per gli animali polari. In tempi recenti le Svalbard sono state raggiunte dal turismo, dalle navi che portano in luoghi così inospitali e inarrivabili croceristi di passaggio. Fino a poco tempo fa frequentare le Svalbard era un'impresa, appannaggio di pochi avventurosi. Oggi è sufficiente comprare un biglietto in qualche compagnia, indossare una giacca a vento e in poco tempo chiunque può mettere piede sulla terra perennemente ghiacciata. L'industria del turismo oggi ha ben pochi limiti e riesce a raggiungere luoghi impensabili fino a poco tempo fa, trasportando in località ultraperiferiche numeri cospicui di persone. Qualcuno potrebbe dire che siamo di fronte a una forma di democratizzazione del viaggiare. Prima, in effetti, alle Svalbard arrivavano solo pochi eletti, viaggiatori provetti, con tempo e risorse a disposizione. Oggi, sull'isola del ghiaccio, sbarcano turisti qualunque, a costi certamente contenuti. Dobbiamo però chiederci se questa democratizzazione abbia senso e per chi abbia senso, se sia davvero una forma di giustizia sociale o almeno di estensione a molti, di opportunità prima spettanti a pochi. C'è da dubitarne, se appena spostiamo il baricentro dell'attenzione dalla classe media europea, quella che di fatto fa turismo oggi alle Svalbard, e allarghiamo lo sguardo alla terra, alle acque, alla vegetazione delle isole e agli altri esseri viventi che le abitano. Il corpo dell'orso polare sulla spiaggia ghiacciata, vittima della condanna a morte decretata ed eseguita seduta stante da una guardia del corpo, è la risposta. Il turismo alle Svalbard non ha senso, non è giusto. Se cambiamo quadrante rispetto all'ordinario e ragioniamo pensando a tutti gli esseri viventi, diventa chiaro quanto sia sbagliato portare tanta gente in luoghi del genere, così vicino ad animali selvatici che compiono ogni gesto, anche l'eventuale attacco o avvicinamento ai turisti, all'unico scopo di nutrirsi e lottare giorno dopo giorno per la propria sopravvivenza. Non è giusto avvicinarsi così tanto a quegli animali. C'è un'incompatibilità di fondo fra la vita, lo stato selvatico e un'industria, il turismo, che è forse la più pesante, la più distruttiva dell'età contemporanea. E questa settimana la rubrica di cucina Il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, è dedicata all'orso morto di turismo in Norvegia. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi la dedichiamo all'orso polare ucciso in Norvegia, ennesima vittima di una convivenza che ancora una volta mostra il suo stupido egoismo. Ispirata dalle forme e dal clima delle sue fredde terre, ecco la ricetta per l'iceberg al latte di cocco con sciroppo di menta. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 ml di latte di cocco, 100 g di silken tofu, 4 cucchiai di sciroppo di agave, 30 g di amido di mais, 10 g di foglie di menta, una scorza di limone, 100 g di zucchero di canna, 200 ml di acqua. Frullate il silken tofu con latte di cocco e lo sciroppo di agave fino ad ottenere un composto liscio. Stemperate l'amido di mais con il composto ottenuto e mettete sul fuoco mescolando con una frusta. Quando raggiungerà l'ebollizione inizierà ad addensare. Allora togliete dal fuoco e finché caldo versate in 4 stampini per budino, possibilmente vuoti al centro. Lasciate freddare, poi mettete in frigorifero fino al momento di servire. A parte, lavate le foglie di menta e tritatele nel mixer assieme alla scorza di limone e a metà dello zucchero. Mettete l'altra metà di zucchero in una casseruola assieme all'acqua e ponete sul fuoco, mescolando per far sciogliere lo zucchero. Aggiungete la menta tritata e fate cuocere a fuoco lento per 10-15 minuti. Togliete dal fuoco e filtrate lo sciroppo con un colino a trama fitta o con un panno. Imbottigliate lo sciroppo e lasciate raffreddare. Togliete il budino dallo stampo e decorate con lo sciroppo di menta, riempiendo lo spazio centrale. Servite decorando con una foglia di menta fresca. Ancora turismo. Andiamo stavolta nell'isola greca di Santorini, dove le autorità locali hanno deciso di fare qualcosa in favore degli asini che trasportano i turisti dal porto al capoluogo dell'isola, che si trova alcune centinaia di metri più in alto, in cima a una ripidissima salita. La decisione è giunta dopo che sui social network si è diffuso un video che documenta l'agonia di questi animali, costretti a trasportare turisti obesi e gigantesche pile di bagaglie e di spazzatura. Gli asini non dovrebbero trasportare carichi superiori al 20% del loro peso, ma dalle immagini risulta evidente il grave pericolo e la vera e propria tortura a cui sono sottoposti questi animali. Nel video di denuncia dello sfruttamento e dell'abuso degli asini si vedeva anche il proprietario di un asino che lo picchiava duramente. È scattata allora la protesta di gruppi di attivisti che è finita in tafferugli. 4 animalisti sono stati aggrediti dai proprietari degli asini. Per evitare pubblicità negativa in questo paradiso delle cicladi, apprezzato dai turisti di tutto il mondo, finalmente il comune di Santorini ha deciso di attivare alcune misure di tutela. Ci saranno degli orari, un limite di carico e non sarà consentito frustare i somari. Se qualcuno frusterà, verrà sanzionato. A noi sembra, francamente, il minimo sindacale. Ci meravigliamo che per arrivare a questo ci fosse bisogno di una protesta animalista e ci fosse bisogno che gli asini soffrissero per decine di anni. A chi andrà in Grecia chiediamo di boicottare il trasporto sugli asini, che viene effettuato non solo a Santorini, ma anche a Rodi e in tanti altri luoghi. The nickel drop when I was on my way beyond the Rubicon. What did I do? And of the games that I can handle, none of one's worth a candle. What should I do? I'm a fighting fickle person, fighting crying, kicking, cursing. What should I do? Oh, after all the folder all and hauling all the cold stuff, all I do. Can't take a good day without a bad one. Don't feel just a smile till I had one. Sara Turetta, presidentessa di Save the Dogs and Other Animals. Si sono appena conclusi questi famigerati mondiali di calcio che hanno portato una serie di polemiche sulla situazione dei cani in Russia. Quando invece si parla della Romania si parla di una situazione ben verificata che voi conoscete ormai da tanti anni, da 16 anni. Purtroppo da 16 anni i cani randagi in Romania vengono uccisi, c'è stato soltanto un breve periodo di un paio d'anni in cui le uccisioni sono state sospese in virtù di una legge che era stata miracolosamente approvata ma che poi è stata cancellata poco tempo dopo. Nel capoluogo di provincia dove noi operiamo l'anno scorso sono stati soppressi 1700 cani in un solo canile di questo capoluogo, perché in realtà sono 4-5, quindi moltiplicate per 4-5 in una sola provincia arriviamo tranquillamente a 6-7 mila cani sani, sanissimi, giovani, belli che sono stati uccisi. Se poi questo lo moltiplicate per un paese di circa 20 milioni di persone, ci si rende conto della grande tragedia che continua sotto i nostri occhi, che nel 2001, nei primi anni, è stata diciamo ancora più macroscopica perché il numero di cani per strada era ancora più grande. È diminuito là dove le uccisioni sono state molto efficienti. A Bucarest è difficile trovare un randagio in città oggi, solo nelle periferie continuano a vagare affamati e disperati o a essere pieno di cadaveri, ma in centro città le uccisioni continuano molto efficienti e quindi l'impressione è di un problema risolto. Nella realtà i canili pubblici di Bucarest sono dei veri e propri mattatoi per cani e sono sempre pieni, a dimostrazione che nonostante la legge dica che le sterilizzazioni di cani di proprietà sono obbligatorie, nella realtà questa legge non viene applicata. Nelle località di medie dimensioni come quella dove noi operiamo, purtroppo il fenomeno del randagismo non è calato, la mentalità della gente in questi 16 anni non è cambiata. Voi vi occupate anche di altri animali? Noi ospitiamo circa 60 asinelli e una dozzina di cavalli, tutti animali da lavoro, perché nelle campagne rumene questi sono i mezzi di locomozione. Questi animali sono sicuramente circondati da più simpatia e assistiamo circa 130 asini e 150 cavalli a domicilio, offrendo cure, attrezzature a chi nelle campagne lavora con questi animali. Questo rende sicuramente più semplice operare. Il grande cambiamento di questi 16 anni è che abbiamo iniziato da una mini struttura fatiscente. Oggi abbiamo la più bella clinica veterinaria della Romania, che si trova all'interno di un complesso che appunto ospita anche cavalli, asini, cani, gatti. Abbiamo però deciso di avviare un progetto in Italia. Il 2019 sarà l'anno della svolta per Save the Dogs. Ci concentreremo su un ambito che riteniamo trascurato, che è quello delle sterilizzazioni, che a nostro avviso è quell'area di lotta al randagismo e di lotta all'affollamento dei canili che viene maggiormente trascurata sia dalle autorità e dalle istituzioni, ma anche dalle associazioni che fanno degli sforzi enormi ma si concentrano sulla gestione dei canili. Possiamo anche iniziare qualcosa nel nostro paese e farlo bene, portandoci dietro l'esperienza che è stata durissima in Romania. Quello che abbiamo imparato sul campo lo vogliamo mettere a disposizione dell'Italia. Invito tutti a visitare il sito www.savethedogs.eu oppure a seguirci sulla nostra pagina Facebook. Non ci sono immagini tragiche, anche se siamo in un contesto tragico, ma cerchiamo sempre di mandare un messaggio di speranza. Siamo anche su Twitter e anche su Instagram. Il 29 luglio è stato il Global Tiger Day, la giornata mondiale della tigre, un'iniziativa globale per la salvaguardia del più grande felino della Terra che rischia di scomparire. Il WWF ha lanciato un appello per aumentare gli sforzi di conservazione di questa specie, la cui situazione resta critica a causa del bracconaggio e della perdita di habitat. Un secolo fa c'erano circa 100.000 tigri in natura, oggi se ne contano appena 3.890 esemplari. Un crollo del 97% nei 13 paesi asiatici che ancora le ospitano e che sono Bangladesh, India, Birmania, Thailandia, Cambogia, Indonesia, Cina, Malesia, Vietnam, Laos, Bhutan, Nepal e Russia. In chiusura vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 445 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.